24 Mattino con Oscar Giannino. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 8:11 primi e 35 secondi, anche oggi, anche domani, ma sto per pochissimi giorni, Oscar Giannino da solo che saluta suo fratello Luca Telese che non c'è per qualche giorno di riposo, devo fare le veci, devo essere quindi più equilibrato, devo rappresentare due punti di vista, ci proverò. Ieri dal giudizio che avete dato sembrava che fosse infatti abbastanza più equilibrato rispetto a più equilibrato, significa che devo tenere conto del fatto che questa è una trasmissione che ha due punti di vista, quella dei cani e dei gatti, appunto, molto diversi su alcune questioni e su tante altre no, però insomma devo moderare il mio essere troppo liberista, mercatista, individualista rispetto a tante altre cose. Allora, oggi vi dico subito, se volete intervenire 800 24 00 24, per gli sms come sapete 349 238 6666, abbiamo un ospite importante dal punto di vista della politica. Sapete che alle 11 c'è la conferenza stampa oggi di Gentiloni, quindi andiamo alla fine della legislatura e al resumé delle sue attività di governo. Segnalo subito su questo un'intervista importante del segretario del PD Renzi alla stampa, su cui dirò qualche parola, e quindi faremo un bilancio da questo punto di vista insieme a Carlo Calenda, il ministro dello sviluppo economico, che ci raggiunge tra pochissimo. Ieri vi richiamo sul Corriere della Sera una sua intervista, una pagina intera di intervista sui temi di cui ha competenza, ma anche una visione generale su il bilancio e le riforme di questa legislatura, ma la necessità di continuarle, in particolare il no alla Repubblica dei veti, e bisogna rimettere mano alla Costituzione su alcune questioni di cui vediamo in vicende come l'Ilva riproporsi la conflittualità tra il governo centrale e i poteri locali, ed è una conflittualità che fa male all'economia, rischia sul caso Ilva, il cui ricorso presentato dal presidente Emiliano della Puglia e dal sindaco di Taranto e esaminato nel merito dal TAR il 9 gennaio, sapete oramai, se ci seguite con attenzione come molti di voi fanno, che ArcelorMittal rischia di tirarsi fuori dalla cordata e di tirarsi fuori quindi dagli impegni per subentrare e investire a Taranto a 5 anni e mezzo dall'esproprio giudiziario e da questa vicenda senza precedenti in nessun paese avanzato, lo sottolineo mille volte, in nessun paese avanzato, dove pure esistono impianti industriali di quel tipo, e anche vicino ai centri urbani c'è stata una procedura così particolare, va, non voglio usare altri aggettivi, come quella usata nel caso delle istituzioni italiane all'Ilva di Taranto. Noi rischiamo di ripartire da zero e su questo sentiremo Carlo Calenda, e lo faremo anche appunto usando come riferimento l'intervista alla stampa di Renzi, che ve lo dico subito, è un'intervista che mi ha colpito perché il tono che usa comunque Matteo Renzi è un tono evidentemente programmaticamente deliberatamente diverso da quello che spesso viene indicato come invece una delle critiche a Renzi, cioè quello di essere troppo enfatico, troppo autocelebrativo e così via. È un'intervista, quella di Renzi, fatta su, per come dire, l'automoderazione, tant'è vero che vi dico subito, nella prima domanda, l'intervista gliela fa Carlo Bertini della stampa, e dice, Carlo Bertini gli chiede di questa legislatura e lui dice, e Renzi risponde, lavoro, tasse e diritti sono stati i temi delle riforme di questo paese, ma nessuna riforma di questa legislatura ha trasformato radicalmente la nostra Italia, sarebbe presuntuoso sostenere il contrario, più semplicemente l'Italia era in grave difficoltà, un passo alla bancarotta, con l'impegno di questa legislatura siamo tornati in carreggiata. Dopodiché ovviamente Matteo Renzi difende la Jobs Act in avanti e l'impostazione di tutti gli interventi, però avete capito che il tono è deliberatamente ispirato a un equilibrio, per così dire, e quindi la tesi è quella, il PD ha rimesso l'Italia in carreggiata, Europa e ceto media le nuove sfide, ci sono poi considerazioni su Grasso, non si pronuncia su cosa farà il PD in caso di esito incerto, molto probabile, vista la legge elettorale del post-voto, naturalmente ribadisce che spera che l'Italia sia guidata da un uomo del PD, però in generale ecco, è un'intervista, se posso dire, moderata da questo punto di vista. Poi nella parte successiva della trasmissione invece, e ve lo dico subito, e quindi se per caso siete uno dei 55.000 soggetti che in Italia erano nelle liste per gli incarichi annuali per insegnare nella scuola primaria dell'infanzia, diplomati solo con il diploma da magistrale, quindi non con la laurea in scienze della formazione, e che pensavate di poter essere chiamati in ruolo, la quarta chiamata, diciamo, dopo la legge buona scuola, oggi chiamateci all'800240024, perché il Consiglio di Stato ha bocciato la vostra aspettativa. E parleremo di questo particolare problema, perché questo no ai 55.000, in particolare poi ai 5.300 che erano già praticamente chiamati alla messa in ruola attraverso le graduatorie di esaurimento, e un'altra fotografia delle follie del nostro paese, perché il nostro paese, cari ascoltatori, dal 1999 in teoria aderisce al principio per cui non si insegna senza una laurea, cioè solo con un diploma non si insegna, però ha continuato a usare questo esercito di precari diplomati, e le cifre che vi ho fatto sono solo quelle che riguardano col diploma magistrale nella scuola primaria e per l'infanzia, e li abbiamo continuati a chiamare, e con la buona scuola hanno alimentato l'aspettativa di essere chiamati alla messa in ruolo dalla GAE, dalla graduatoria esaurimento. Allora, cosa succede adesso? Il TAR ha detto sì alle graduatorie da cui si attinge per il 50% per la messa in ruolo per i diplomati in materie tecniche, e il Consiglio di Stato dice no a quelli con le magistrali. In tutto questo con un paese che da 18 anni dice in teoria non si insegna se non con la laurea. Ecco, vi do queste tre cose per farvi riflettere sulle contraddizioni a cui può arrivare il nostro paese. Allora andiamo un secondo alla strada in diretta e poi subito con noi il ministro Carlo Calenda. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... mattino. Eccoci qua, tornati in diretta, Oscar Giannino in conduzione oggi. Grazie di essere con noi, al Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e buone feste. E buone feste, sì, non sono ancora finite, ha ragione. Allora, io parto da alcuni numeri. Ci sono dei numeri che dicono chiaramente, perché hanno addirittura segno doppio in alcuni comparti, che stiamo vivendo una grande ripresa degli investimenti, perché se andiamo a vedere nella meccanica strumentale, solo 24 ore ieri le metteva in fila, ci sono settori come la ceramica in cui la meccanica strumentale aumenta il 21,4%, nel legno il 20,6%, fonderia 28% e così via. Dall'altra parte oggi Guido Gentili, il direttore del Sole 24 Ore, dice sì, però di questo dobbiamo essere molto soddisfatti, e in particolare Guido Gentili ricorda i suoi provvedimenti Industria 4.0, ministro, e poi dice però non dobbiamo dimenticare che noi siamo ancora a quasi meno 6 punti di PIL rispetto al 2008, cioè al pre-crisi, e nel frattempo l'Unione Europea è più 7% rispetto ad allora. In questa forbice, ministro Calenda, chi la ricorda? È un pessimista disfattista, secondo lei? Oppure che cosa ci dice questa forbice? Lei come la pensa? Io la penso che non è per niente un pessimista disfattista, ma è un realista. I numeri non hanno colorazione politica e non è che sono più di tanto interpretabili. Noi siamo usciti dalla crisi, nel senso che sono tornati i segni più, in particolare sull'export e gli investimenti, che peraltro non riguardano in modo uniforme tutta l'industria e neanche tutto il paese. Detto questo, siamo ben lontani dall'aver recuperato le fratture economiche e i danni economici di una crisi che non ha precedenti e che soprattutto non aveva uguali nei paesi europei come quella che ha vissuto l'Italia, e quindi il lavoro da fare è molto molto lungo in uno scenario economico che sarà più difficile, non più facile. Perché ieri al Corriere della Sera lei ha lanciato un tema così importante, ma fino a questo momento totalmente assente da quelle che sembrano le grandi piattaforme dei tre poli politici? Il titolo della sua intervista diceva tutto: serve una costituente, no alla Repubblica dei ricorsi e dei feudi. Perché la costituente? Ma intanto poi mi racconta quali sono queste tre grandi piattaforme, perché in questo momento a me sembra che ci siano solamente quelli che io chiamo i fake slogan, cioè una serie di slogan. Poi le chiedo qualcosa su questo. Dopodiché penso che noi siamo un paese strano. Tutta la Seconda Repubblica, tutti, centrodestra, centrosinistra, hanno constatato che l'Italia è un paese troppo aggrovigliato in cui non funzionano i vari sistemi istituzionali, non lavorano insieme da quello parlamentare ma anche a quello, soprattutto quello tra regioni comuni e Stato centrale, e che questo era uno dei problemi fondamentali per cui il paese non funzionava. Dopodiché Berlusconi l'ha lamentato continuamente e non è successo niente, anzi ha provato a fare una riforma e non gli è andata bene. Renzi ha fatto una riforma che è stata sottoposta a referendum, che era la battaglia per la vita o per la morte, abbiamo sbagliato a portarla avanti come l'abbiamo portata avanti, ma i problemi restano, e allora non è che possiamo poi far finta di niente, come dire vabbè, a questo punto smettiamo di parlarne per il resto dei nostri giorni. Ieri si sono celebrati 70 anni della Costituzione, importantissimo ricordare e essere orgogliosi della nostra carta costituzionale, però farlo senza retorica, cioè guardando quello che funziona, quello che non funziona e quello che va cambiato, e probabilmente farlo attraverso una costituente eletta è un modo per avvicinare i cittadini alla discussione sulla Costituzione, perché i cittadini la sentono come posso dire, come un elemento fondativo della Repubblica, giustamente, forse non vogliono vedere progetti che piovono dall'altro e vogliono partecipare, ma che siano consapevoli che le cose non funzionano, e tutti i giorni io lo vedo nel mio lavoro, è chiarissimo, e siccome andiamo in un periodo che secondo me sarà molto difficile e anche più tosto, diciamo, della storia, io penso che dobbiamo avere un sistema che funziona molto meglio, e dirlo dopo averne discusso per anni è fondamentale. Noi dobbiamo chiudere la Seconda Repubblica in modo ordinato, altrimenti ne subiremo le conseguenze di una chiusura caotica nella prossima legislatura. Come mai, se posso chiedere una constatazione che a questo punto più che istituzionale è anche politica, l'esempio di Taranto dice che i contrasti così radicali sull'interpretazione di cos'è un potere concorrente su grandi opere, su infrastrutture energetiche, su come si fa la riconversione di una grande acciaieria europea come Ilva, può essere radicale all'interno delle stesse famiglie politiche, cioè il presidente Emiliano, la guida del governo, sia con Renzi sia con Gentiloni, non ricade, come può avvenire per la guida di altre regioni, in una per certi versi più comprensibile dialettica frontale di scontro tra impostazioni politiche e partiti diversi. Qui siamo all'interno di una stessa famiglia sedicente riformista. Cosa vuol dire? Ma io credo che ci sia la tentazione in questo sistema che ne dà la possibilità di, come posso dire, rivendicare la titolarità su una sorta di feudo locale, cioè l'idea che quella zona è mia e sono io a decidere come si fanno le cose, sono io a decidere cosa si fa e cosa non si fa, e l'interesse nazionale in tutto questo è assolutamente secondario. E noi ci troviamo spessissimo in queste situazioni, e faccio un altro esempio: abbiamo finalmente autorizzato la centrale di spinta di Sulmona dopo tantissimi ricorsi, che serve, è molto importante per la nostra sicurezza energetica, e puntualmente è arrivato il ricorso a Regione Abruzzo, cioè al TAR. E il problema è che l'interesse nazionale in questo paese viene sempre dopo come posso dire, l'interesse locale, o la secondo me sbagliata idea che si difende l'interesse locale impedendo di svilupparsi una serie di progetti che sono utili per tutta la nazione, come quando Emiliano dice ma perché io devo fare arrivare un gasdotto, che beneficio ne ho come Puglia? Ne hai un beneficio come paese, ed è una cosa molto importante, perché sei parte di un paese. Allora, questa sensazione di sgretolamento dell'interesse nazionale credo che sia pericolosissima in questa stagione della storia. Senta, oltre a questo c'è un tema sul quale ieri, per esempio, lei con apprezzabile, secondo me, perché spesso i ministri rifuggono a rispondere alla domanda, c'è qualcosa che è andato storto. Ieri c'era una domanda e lei fa due esempi sulla cosa, sui due rincrescimenti, per i due grandi armadi che ha. E una di queste mi ha colpito perché è un tema che non c'è mai nel nostro paese, che pure è il secondo paese manifatturiero dell'Europa, e riguarda, lei diceva ieri, mi dispiace per i ritardi nella costruzione di quello che doveva essere il nostro Fraunhofer. Fraunhofer è un grande istituto di ricerca applicata in Germania, con oltre 60 sedi territoriali, sviluppato nei decenni, lo dico per i nostri ascoltatori che non lo sappiano, in maniera coerente al mix delle vocazioni produttive delle diverse aree della Germania, e che per il 70% va avanti con programmi di ricerca applicata di fonte privata, cioè direttamente dalle imprese, per il 30% sono invece di origine pubblica, e l'evoluzione dei progetti di ricerca, la definizione dei progetti di ricerca si fa con le imprese, nelle imprese e ed è il sistema attraverso il quale l'innovazione tecnologica ha fatto evolvere la capacità dell'industria manifatturiera tedesca. Perché una cosa simile, che non dovrebbe avere avversione di tipo politico nel nostro paese, che sarebbe una grande alleanza pubblico-privato e così via, non si riesce a farla nell'esperienza di Calenda? Ma perché io è stato l'unico caso in cui ho accettato la logica dei cosiddetti bandi, cioè del fatto che le risorse pubbliche vengano assegnate sulla base di un bando, ovvero sulla base di una serie di criteri che vengono definiti, che, come posso dire, può sembrare un modo oggettivo di lavorare. Io ho scelto, come voi sapete, per tutta Industria 4.0 incentivi fiscali automatici, quindi non a bando. In questo caso era inevitabile in qualche modo, perché c'erano la selezione di alcune università per farne dei centri di eccellenza, e la realtà è stata che sono rimasto intrappolato in quella che viene chiamata navetta, per cui si è passato dal Consiglio di Stato che ha modificato delle cose, le ha riportate da me, poi io l'ho dovuto condividere del MIUR che le ha cambiate, poi è andato al MEF che ne ha cambiate altre, siamo ripassati al Consiglio di Stato, poi alla Corte dei Conti. Cioè, questo è un sistema oggettivamente barocco, che fa sì che poi questo strumento è uno strumento inutilizzabile, quello dell'incentivo a bando, infatti io non li ho utilizzati. Ora, ho sbagliato io, perché io mi sono fatto portare su questa strada e avrei dovuto dire no, questa strada non va bene, no, questa larghissima condivisione con altri ministeri è una cosa che non funziona, perché non ha funzionato. Le racconto una cosa incredibile: a un certo punto bisognava selezionare le università ammissibili, allora c'è una graduatoria che stabilisce diciamo quali sono le migliori università in queste materie, sostanzialmente ingegneria eccetera eccetera, e questa classifica è fatta sulla base del numero di pubblicazioni in rapporto alla dimensione dell'università. Usciva fuori come prima università una piccolissima università di Roma, la Unicusano, perché aveva a pochi ricercatori e quindi il numero di pubblicazioni rispetto ai ricercatori è ovviamente altissimo. Era escluso il Politecnico di Torino, ma insomma una roba così non può funzionare. È chiaro che stiamo parlando di un sistema che, quando deve fare un lavoro appunto cosiddetto a bando, cioè costruendo di criteri oggettivi, poi questi criteri oggettivi diventano criteri folli, che è una cosa diversa. Però se io dico, nella mia consueta abrasiva propensione all'estremismo verbale, che questo paese dimostra da decenni, si vede dalla marginalità che continua a essere confermata nella formazione pubblica all'istruzione duale professionalizzante nella secondaria e nella terziaria e nel ciclo terziario successivo al terziario, e così, se vediamo che ogni volta che si prova a fare imprese private insieme alla ricerca pubblica, la reazione che viene dalla burocrazia pubblica, dagli arti vertici del MIUR, dalla navetta che lei ha appena descritto, è quella di non riuscire a ottenerlo. Se io dico abrasivamente, questo è un paese in cui i vertici della PA continuano a pensare che far entrare il privato, fare le cose insieme al privato, significa venir meno all'impostazione pubblica che teme costitutivamente gli interessi di parte privati e invece legittima quelli che secondo la PA si valutano, come lei ha detto, per cui alla fine esce Unicusano col Politecnico escluse. Sbaglio secondo lei nella sua esperienza? No, è un pregiudizio? No, secondo me non sbaglia, e aggiungo, secondo me questo si riflette in un numero che io ho cambiato con la legge di bilancio, ma ancora poco, cioè il fatto che noi parliamo tutti di occupazione giovanile, dopodiché abbiamo 8.000 diplomati degli istituti tecnici superiori contro gli 800.000 tedeschi. Adesso con la legge di bilancio io li porterò in 3 anni a 20.000, ma stiamo parlando del niente, ho dovuto raschiare il fondo del barile, peraltro manco stanno sul mio centro di costo, perché ovviamente non rispondono al Ministero dello Sviluppo Economico ma al mio. Quindi c'è una disattenzione su tutto questo. Io, se dovessi fare un provvedimento per i giovani, domani porterei i diplomati degli ITS, li porterei a 80.000, cioè questa è la prima cosa da fare. Quindi c'è questo. C'è anche un'altra cosa però, il fatto che qui in Italia si lavora sempre molto poco sulla gestione, cioè quello che si guarda poco è quello che si può fare, non solo quello che sarebbe giusto teoricamente fare. Vale a dire, è chiaro che il meccanismo per esempio dei bandi è un meccanismo che, se tutto funziona perfettamente, diventa virtuoso, ma siccome tutto non funziona perfettamente, e io lo so bene perché avevo 10 miliardi di fondi non spesi qui dentro in bandi, allora tu devi trovare un sistema che sia un sistema alternativo. Per esempio quello che abbiamo usato su Industria 4.0, in cui abbiamo detto che gli incentivi siano fiscali automatici, in maniera che a me nessuno mi deve venire a chiedere niente, fanno gli investimenti e poi usano il loro commercialista e se li portano in detrazione. Ecco, bisogna avere una consapevolezza, questo nelle aziende è molto preciso, che l'implementazione è la chiave, il resto sono chiacchiere, cioè quello, la teoria, l'idea, la mission, le linee guida che addirittura si postulano essere il lavoro del ministro, cioè dare le linee guida, non vuol dire niente. Le linee guida nella vita non vogliono dire nulla, quello che vuol dire è la capacità implementativa. Su questo c'è molto meno interesse in Italia, quindi c'è un problema culturale ma anche un problema metodologico. Senta, oggi c'è l'editoriale della Stampa, scritto da Lucia Annunziata, che dà una cifra della campagna elettorale. La cifra della campagna elettorale, a giudizio di Lucia Annunziata sulla Stampa, è un po' questa. Ci saranno ovviamente le tre famose piattaforme di cui parlavamo prima, cioè Berlusconi da una parte insieme a Salvini e il centrodestra dall'altra, Renzi per il PD e i 5 Stelle con Luigi Di Maio, che però tutti quanti si rivolgono a la vasta parte moderata, centrale e prevalente nella stratigrafia politica del paese, però accarezzando in maniere diverse la paura, per così dire, e quindi c'è questa corsa per i voti dei moderati, tant'è che praticamente ognuno ha la sua idea di reddito. C'è il reddito di cittadinanza, valutazione di copertura 16-19 miliardi dei 5 Stelle, da ieri c'è il reddito di dignità di Berlusconi, 1000 euro a italiano e con l'integrazione pubblica per chi non arriva a 1000 euro, tenete conto che messa così non sappiamo niente sulle coperture, non sappiamo niente in cambio di cosa, milioni di italiani guadagnano meno di 1000 euro netti al mese, quindi sarebbe anche un grande disincentivo all'occupazione, per così dire. Però c'è anche il reddito di dignità, poi c'è il reddito di inclusione invece del governo da questa 1.700 milioni, che però tocca un quarto della platea dei 4.8 milioni di poveri assoluti. Allora, questo paradosso di rivolgersi tutti ai moderati ma pettinando la paura e prescindendo dai numeri, a lei come la fa stare in campagna elettorale? No, a me male, ma soprattutto secondo me fa stare male i moderati, nel senso che adesso ho premesso che il moderato è un termine orripilante, ma sono le persone che sanno qual è la realtà e che non accettano programmi che sono rappresentano fuga dalla realtà, che sappiamo benissimo che non, cose che non accadranno, non accadranno perché costano troppi soldi, non accadranno perché rischierebbero di portarci, io lo voglio ricordare qui perché noi facciamo sempre i conti senza l'osta, la prossima legislatura è una legislatura in cui avremo un quantità di easing che si va a ridurre significativamente e poi a finire, un'eurozona che non va affatto verso la maggiore flessibilità, tutto il contrario, va verso criteri molto più stringenti di riduzione del debito e va verso criteri molto più stringenti sulle banche e quindi di riflesso anche la capacità delle banche di prestare. Allora, tutto questo non può non fare i conti e tutte le proposte elettorali con la realtà dei fatti. Noi dobbiamo concentrare le risorse su due cose, uno sugli investimenti e sulla crescita, e sulla crescita intendo sulle competenze, la crescita anche delle competenze, perché abbiamo visto che funziona, lo ricordava lei prima, noi dobbiamo lavorare sull'offerta perché c'è una domanda internazionale che noi possiamo cogliere, che è straordinaria, e dobbiamo fare un percorso un po' simile a quello che ha fatto la Germania. Poi i redditi sono diversi, perché il fatto che ci sia un ammortizzatore sociale universale contro la povertà è un fatto di civiltà in qualunque paese, però appunto un ammortizzatore sociale contro la povertà, non l'idea del fatto che non bisogna dare lavoro ma reddito, questa è una repubblica fondata sul lavoro non sul reddito. Allora tutto questo è un grande caos, come posso dire, programmatico, che poi si tradurrà in un appello al voto utile, cioè cosa succederà? Che Berlusconi dirà abbiamo i 1000 euro, bla bla bla, le pensioni minime, tutto quanto, e poi dirà però votate me perché così non vincono i 5 Stelle. In questo modo si solletica l'elettorato, diciamo, più sensibile alle promesse, e dall'altro lato però si dice al ceto medio attenzione perché io poi sono il baluardo contro l'irresponsabilità dei 5 Stelle. Io credo che sia una campagna elettorale sbagliata, penso che invece oggi gli italiani, diciamo moderati, chiamiamoli così, quello che vogliono è la rappresentazione della realtà con le sue luci e le sue ombre, e un programma articolato, serio e fattibile per portare l'Italia definitivamente fuori dalla grande crisi economica. Senta, due domande secche con due risposte secche in una sola battuta finale per ringraziarla. La prima è: davvero ce la fate? Sperate di farla o ce la farete davvero? Vero, entro fine febbraio per chiudere la procedura di Alitalia? E secondo, ma chi la pensasse come lei? Beh, può capitare, no? Chi la pensasse come lei? Alla fine, che trova qualcosa sulla scheda da votare secondo lei? La prima risposta è sì, io penso di arrivare alla chiusura entro febbraio, voglio chiudere questa storia per gli italiani e voglio soprattutto spendere il meno possibile di quei 900 milioni di euro che oggi sono intatti nella amministrazione straordinaria, ma che con la stagione che va verso il basso, il petrolio che va verso l'alto, rischiano di essere spesi rapidamente. La seconda risposta è: io spero e penso che un'alleanza del PD che includa per esempio anche la formazione della Bonino, che dal punto di vista economico dovrebbe essere più liberale, ma insomma anche il PD recuperi il tono della responsabilità e della costruttività. Lei citava oggi l'intervista di Renzi, che effettivamente sembra indicare un cambiamento, perché penso che questa è la proposta più articolata oggi e che può diventare una proposta attrattiva per i moderati. Non è detto che succeda, non è detto che succeda. Va bene, grazie signor Ministro del tempo e grazie di quello che ha fatto. Noi torniamo dopo la pubblicità. Mattino. Eccoci qua, tornati in diretta e dopo, ministro Carlo Calenda, alcuni flash sulle cose che vi voglio richiamare dal giornale di oggi, al di là della rassegna stampa, se l'avete sentita, la nostra ottima Giulia Crivelli prima di questo appuntamento con 24 Mattina, con la rassegna stampa. E devo dirvi, io vi segnalo innanzitutto il fatto, il fondo sulle ipocrisie europee anti-americane di Paolo Mieli, che è un sano editoriale di quelli che vanno controcorrente, non pettinano il pelo del cavallo nel senso che piace al cavallo, nel senso che oggi è diventato trasversalmente troppo facile parlare male degli Stati Uniti di Trump. So che molti di voi diranno: ma cosa stai dicendo? Difende Trump. Ecco, questo descrive il problema, perché vi fa perdere di vista che ci sono delle cose concrete su cui non è che il presidente pro tempore con le sue intemperanze, Mario Pinte, coincide con il giudizio liquidatorio verso gli Stati Uniti nel mondo. Quindi leggetelo se potete, pensando a che cosa è avvenuto in Europa, la sfida lanciataci da Putin a problemi risolti come Kiev e tutto il problema dei paesi dell'est europeo con cui abbiamo rapporti sempre più problematici, e Putin è sempre un magnete più forte da questo punto di vista. Secondo me ha ragione Paolo Mieli, e va ringraziato il Corriere della Sera per tentare di farvi fare una riflessione sotto questo profilo. Poi va ringraziato anche il Messaggero, perché nella fine legislatura, e tutti fanno i bilanci e le interviste politiche, c'è ancora però un Consiglio dei Ministri, ed è l'ultimo, in cui si dovrebbe varare la disciplina delle intercettazioni, uno dei classici punti delicatissimi dell'incrocio tra media e giustizia, il circuito, il famoso circo mediatico giudiziario. Allora, su questo premio mio personale al Messaggero, che se ne occupa oggi, aprendoci, giornale intercettazioni stretta a metà, e pagina 2 e 3, e su questo illustrando i tre pilastri fondamentali delle misure che verranno assunte oggi. È una riforma gravata, ohimè, dal fatto di compromessi troppo elevati con opinioni opposte, una delle quali ovviamente sono i magistrati. Domani in Consiglio dei Ministri il testo definitivo. Vi sottolineo l'analisi in cui mi ritrovo parola per parola dell'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio sul Messaggero: è una mini riforma che non elimina abusi e rischi, e ci sono tre punti richiamati da Carlo Nordio. Il primo è che limitando la trascrizione anche ai brani essenziali del totale delle intercettazioni, è comunque il magistrato che ha l'insindacabile giudizio in cui sarà difficile entrare, lo assume e basta, su ciò che è rilevante non lo è e ciò che non lo è. E questo potere personale, non in camera collegiale, è un rischio, un potenziale rischio sulle garanzie. Il secondo problema è che si comprimono i tempi e i modi di accesso per la difesa alle globalità delle intercettazioni, perché io per difendere non è che posso fidarmi solo di quello che ha scelto il PM. Sì, lo so, il PM in teoria si deve occupare anche di argomenti difensivi, ma non è così nel nostro ordinamento, nella prassi concreta, lo è solo nelle nostre leggi in teoria. E quindi attenzione, il tempo per l'acquisizione tecnica della difesa di tutto ciò che resta rilevante ma che il PM non ha inglobato è un grande problema aggiuntivo che indebolisce le difese. Il terzo è che comunque queste trascrizioni restano in una cassaforte che ha l'accesso comunque non solo dei difensori ma degli ausiliari di giustizia, periti, consulenti eccetera, e quindi le fughe resteranno. Questa è l'opinione di Nordio, ma è anche la mia a dirvi la verità. E aggiungo viva il fatto che ci siano, in un mondo che può sembrare lontano dalla politica, ma niente è lontano dalla politica internazionale, come quello degli scacchi, campionesse come Anna Magidziuk, 27enne ucraina, che perderà i suoi titoli mondiali, è la campionessa mondiale in carica di scacchi, perché fa una scelta sacrosanta, non ci va a giocare ai mondiali a Riyadh, perché dice: io la baia non me la metto, non mi sottopongo a riti del vestiario sottoposti che ci vengono chiesti. Comunque già l'ultima volta sono andato in Iran e me ne sono pentita di dovermi velare per giocare. Si prendano i miei mondiali, io non scendo su questo a compromessi. Ecco, ci fosse un mondo con questa 27enne, pensate, è tutta la sua vita il fatto di essere campionessa mondiale, però non rinuncia alle idee di libertà. Viva per quello che mi riguarda. Fatevi piacere voi, i Putin che giocano a hockey come un tempo il Duce Mussolini andava a cavallo e tutti lo elogiavano. A me piacciono le campionesse di scacchi che dicono: io non mi piego, e lì le donne sono trattate da schiave e quindi non ci vado a giocare in quel modo lì. E anche se qualcun altro, tutte faranno finta di niente, io non faccio finta di niente. Poi un altro esempio, e poi andiamo invece a sentire questo paradosso che avviene nella scuola, dei paradossi del nostro paese. Nel nostro paese capita che all'AMA, l'azienda insieme all'ATAC municipalizzata di Roma, tra le più scassate d'Italia, lo dico senza alcun compiacimento, all'AMA c'è un enorme problema, ovviamente lo sapete, non solo Parentopoli, ieri sono arrivate le stangate per gli ex amministratori, ma per procedure di gara che hanno creato negli anni un mucchio di problemi. Adesso si mette mano a cambiare procedure di gara e in questi giorni arrivano missive fulminanti dell'anticorruzione di Cantone, che dice: no, le vostre nuove procedure di gara non funzionano, vanno annullate, ricominciare da capo. L'AMA entra naturalmente immediatamente in allarme dicendo: mio Dio, se non che le lettere dell'ANAC erano fasulle, con tanto di protocollo fasullo tutto era perfettamente credibile, però c'è un falsificatore i cui interessi venivano lesi dalle nuove procedure di gara, che è arrivato a essere specialista, ricordate Totò Truffa, la banda degli onesti quando si tratta di truffare le lire, e è diventato abilissimo nel sapere contraffare in maniera totalmente credibile i formati delle missive operative dell'autorità anticorruzione. Il corrotto che diventa autorità anticorruzione e che blocca le nuove procedure di gara, meno corrotte forse di prima, è la perfetta fotografia di che cos'è la pubblica amministrazione italiana, perché queste cose sono impossibili senza averci gente dentro. Se volete approfondire, pagina 19 Corriere della Sera, bandi da rifare, firmato ANAC, male lette, erano fasulle. Ma noi Totò e Pirandello che ci fanno? Niente, perché è una scoperta quotidiana il mondo pubblico. Un'altra drammatica scoperta, conferma dell'aspetto pirandelliano della pubblica amministrazione italiana, che ieri il Sole 24 Ore, unico giornale, si è reso conto: per esempio nella riforma della PA avevano detto col salario di merito finalmente non procederemo più con le quote fisse della inapplicabile riforma Brunetta, ma si farà davvero il salario di merito. Illusi. Nell'intesa del 24 notte, guarda caso, sulle linee generali del nuovo contratto della pubblica amministrazione è saltata la norma che doveva impedire la distribuzione a pioggia dei salari di merito della pubblica amministrazione. Cari ascoltatori contribuenti, ancora una volta vi hanno raccontato una cosa, ma non sarà così. Ma paradosso nel paradosso. Parliamo della buona scuola e parliamo di quello che avviene, ancora una volta su questo tema devo riconoscere, è stato il Messaggero ieri l'unico ad occuparsene con evidenza, ieri con una pagina intera, pagina nuova, che diceva: il diploma non basta, fuori 55.000 supplenti. Era molto attesa questa sentenza del Consiglio di Stato, perché era relativa appunto a 55.000 supplenti, stiamo parlando dell'istruzione fascia scuola dell'infanzia, istruzione primaria, di diplomati con diploma magistrale precedente al 2001-2002, quindi diplomati ma utilizzati per lunghissimi anni nelle graduatorie a tempo per fare le supplenze in questa fascia decisiva della scuola italiana. rispetto a questa situazione, un paese in cui dice dal 1999 non si insegna solo col diploma, però va avanti a, per decenni ad alimentare la supplenza con i diplomati, li mette nelle graduatorie, quando si arriva al punto poi di dire state nella graduatoria esaurimento, quella da cui si prende per il 50%, si pescano coloro che poi vanno all'abilitazione, ci sono state tre grandi serie di messa in ruolo dopo la buona scuola, ecco che era molto attesa questa sentenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dice no, voi non avete titolo per la messa a ruolo, venite retrocessi nella graduatoria di terzo livello, quella dopo la quale al terzo anno, se non vi richiamano, non fate più neanche i supplenti. Tenete conto che nel frattempo il TAR a novembre ha invece detto l'esatto opposto per i diplomati nelle materie di istruzione tecniche. Che paese è quello che da una parte dichiara un principio dal 99 e dall'altra lo contraddice anno dopo anno utilizzando invece i diplomati? Terzo, poi dice a certi diplomati in alcune materie che va bene però per la messa a ruolo. Quarto, però dice a quelli che hanno il titolo della magistrale no, voi invece fuori dopo che vi abbiamo utilizzato tanti anni. Che paese è un paese così? Ecco la domanda che noi... rivolgiamo a Rosa Sigillò, che è coordinatrice del MIDA, Movimento per i Docenti da Abilitare, è proprio questa. Adesso voi, a coloro che si riconoscono nel vostro coordinamento, hanno sperato in questo ricorso, che cosa raccontate, Rosa Sigillò? Buongiorno, intanto grazie infinite per l'ospitalità, siamo molto contenti di questa opportunità che avete avuto. Non siete proprio pochi, non siete pochi, e voi circa... avete creduto allo Stato oltretutto. Non è che... posso semplicemente correggerti su un punto, perché ecco, no, hai detto tutto in maniera corretta tranne uno. Veniamo retrocessi in seconda fascia d'istituto, che era la fascia dove già stavamo, dopo i 36 mesi. Quindi dopo aver avuto incarichi dal 1 settembre al 31 agosto non puoi più prendere quegli incarichi annuali, sì. Ma la seconda fascia non li avremmo presi comunque. Esatto. La cosa che mi fa ridere, Oscar, di questa sentenza che io ho letto con attenzione è la seguente. Da premettere che questo Consiglio di Stato ha assunto a pieno titolo 3.000 docenti, quindi sono già in ruolo senza riserva, e circa 30.000 con clausola scissoria. E molti altri li ha inseriti appunto in questi graduatori di esaurimento per fare le supplenze annuali. Quindi questo qui c'è tutto chiaro. Dopo due anni, quindi dopo una precedente plenaria che conferma la nostra posizione nelle graduatorie di esaurimento, loro ci confermano dentro, sempre con riserva, ci mandano via con delle motivazioni, a mio avviso, assurde, non perché sia diretta interessata, ma perché obiettivamente sono assurde. C'è scritto che noi avevamo la possibilità di fare il concorso nell'anno 99. Mm-mm. E non è vero, perché no. Io che mi sono diplomata nel 99 non ho avuto la possibilità di fare il concorso 99. Esatto. C'è scritto nella sentenza che avevamo la possibilità di fare il DM85, quindi la sanatoria della Morazzi, quindi con l'accesso a questo corso abilitante che durava due anni con i 360 giorni di servizio, ed è una bugia anche questa, perché le graduatorie di istituto non si sono aggiornate nel 99, si sono aggiornate mi pare nel 2001-2002. Io ho iniziato ad insegnare nel 2003, sono una delle più giovani ad aver iniziato col diploma magistrale. Nel 2004 i 360 giorni non li avevo. Arriva Fioroni e mi chiude le graduatorie permanenti. Il Consiglio di Stato cosa mi dice? Che avrei dovuto fare domanda di inserimento in GAN nel 2007, però mi riconosce il titolo abilitante nel 2011. Ma di che cosa stiamo parlando? Io temo, adesso, aspetta Rosa, sì. Aspetta un secondo, perché ovviamente sì. Devi immaginare che chi è... scusi, deve immaginare, deve immaginare sì, che chi ci ascolta non è tenuto giusto? A sapere tutti i dettagli tecnici. Io temo, anch'io ho dato un occhio al provvedimento, me lo sono fatto mandare, temo che sì. La complessità degli interventi che di anno in anno e più volte in uno stesso anno il Ministero fa su esattamente i temi che stai enumerando, gli abilitati, le finestre di regolarizzazione, i nuovi percorsi, perché quello che citavi adesso era un nuovo percorso abilitante ad hoc, uh-huh. E così via, è tale che sfugge persino al Supremo Magistrato Amministrativo, cioè ho l'impressione, a meno che non stai a immaginare la malafede, perché lo so che tu stai dicendo ma figurati, sanno tutto, però allora è malafede. Lo stai dicendo tu. Ah, per carità, il mio compito tu. È fare la domanda, esatto. Sì. Lo stai immaginando tu. Cosa certa è che noi abbiamo chiesto anche in passato una soluzione politica, ancora prima che si avviassero questi ricorsi. L'abbiamo chiesta anche, appunto, come mida precaria, il Partito Democratico. Mi permetto di fare nomi perché sono arrabbiata con tutti e ne ho per tutti. Allora, avendo chiesto illo tempore ancora prima del Partito Democratico un corso abilitante, va benissimo, ci hanno dichiarati abilitati all'insegnamento e va bene, non ce l'hanno dato. Abbiamo chiesto l'aggiornamento del titolo, ok? Perché hanno dato la possibilità ai docenti di ruolo di iscriversi a scienze della formazione primaria e di farsi il corso di laurea senza test d'ingresso. Hanno fatto un corso di laurea di 2 anni e gli hanno dato appunto questa laurea. L'avevamo chiesto anche per noi, ho detto vabbè, non basta il diploma magistrale, chiediamo anche l'aggiornamento. No, assolutamente no, voi no. Va benissimo. Allora abbiamo chiesto di avere un concorso riservato perché comunque insegniamo da anni e non va bene lo stesso. Abbiamo chiesto a PD di avere un transitorio come quello della secondaria, no, che devono aspettare la plenaria. Guarda caso la sentenza Rosa, esce quando? Il 20 di dicembre, sì, è vero. E il problema, allora, tu hai enumerato altrettante numerose forme di risoluzione ad hoc di problemi per diverse constituency che sono state adottate nel tempo. Io ho orrore di un metodo di questo tipo, perché alla fine finisce che la soluzione si trova discrezionalmente solo per delle constituency particolari, nel vastissimo oceano di coloro che sono stati, avendo creduto allo Stato, oscenamente trattati per anni nell'oceano del precariato della scuola. Io temo di avere un'opinione, magari sbagliata, e te la giro. Sì. Voi, a differenza di tante altre sottoinsieme che hanno avuto soluzioni come quelle che enumeravi, trattando discrezionalmente con la politica, siamo chiari, di questo si tratta, certo. Voi siete tante, perché poi molte donne, siete tante rispetto a coloro che avevano acceso un credito, i laureati in scienze della formazione, che se entrate in ruolo voi, quello che gli hanno raccontato salta, ma perché obiettivamente per l'impenetrabilità del numero delle cattedre, e allora secondo me la mannaia, voi siete la parte debole, è così? E me la servi su un piatto d'argento allora la risposta, io te la do chiaramente. Tenete conto, io non ho parenti nella lista, alcuni stanno dicendo sei troppo connivente, no, io mi metto nei panni delle famiglie di queste 55.000 famiglie che da 15 anni hanno creduto allo Stato, capite, non c'è di peggio, secondo me. Posso farci una domanda, ma la faccio io a te. Adesso, volendo togliere tutti quanti i magistrali che non hanno servizio, quindi io quelli là proprio li voglio escludere, sì. non quelli che non hanno avuto modo di insegnare, perché non sono stati chiamati, perché sono nelle graduatorie del Sud che sono piene. Parlo di quelli che non hanno mai voluto fare questo mestiere, che non si sono mai inseriti nemmeno in graduatoria. Sì. Tutti quelli che insegnano da anni, non sono nemmeno 55.000, siamo molti di meno. Allora facciano una riforma universitaria chiara e precisa, togliendo l'abilitazione anche ai nuovi di scienza della formazione primaria, non a quelli in corso, attenzione perché altrimenti mi massacrano, ai nuovi che verranno. Perché ogni anno scienza della formazione primaria, questo corso di laurea, permettimi il termine, sforna, che non è un termine adatto, ma è per dare un ti senso vuoi fare alla massacrare, parola, va bene, ok? Mi faccio massacrare, sforno ogni anno, dai docenti universitari molto volentieri, sforno ogni anno centinaia di migliaia di abilitati. Allora, ci sono ancora il scienza della formazione primaria e vecchio ordinamento, anche loro hanno subito una grave ingiustizia, perché avrebbero dovuto essere in GAE con noi. Fioroni chiude le graduatorie permanenti, le trasforma in graduatorie di esaurimento e lascia fuori questa parte che è specializzata su sostegno, OSTAR. I docenti di scienza della formazione vecchio ordinamento hanno la specializzazione, noi abbiamo classi vuote, senza insegnanti, e questi qua non vengono assunti, è una cosa vergognosa. In più ci sono i nuovi che giustamente hanno aspettative, che devono essere ovviamente anche ascoltate, e allora la facoltà di scienza della formazione primaria non se la può prendere con i magistrali, se la deve prendere con la propria università. Cambino riforma, facciano un ciclo unico e facciano in modo che possano insegnare anche ma le scuole medie. Ma adesso i vostri avvocati, dopo la sentenza che è stato, che vi hanno detto? Allora, i nostri avvocati intendono procedere, risolta la questione in Italia, intendono procedere, poi vogliono andare in Cassazione. Noi come MIDA procederemo a livello politico, come abbiamo sempre fatto anche con la secondaria, sperando di avere di trovare una soluzione anche per scienza della formazione primaria, perché comunque bisogna includere tutti, anche loro sono dei dimenticati e dei poveri disgraziati, diciamo, come noi. Va bene, Rosa, io come vedi noi siamo qui pronti. Oscar, posso fare un appello a tutti quanti? Certo. L'8 di giorno 8 dalle 13 e mezza in poi, dalle 14, faremo una grande manifestazione a Roma davanti al Ministero. Va bene. Quindi invito tutti quanti i colleghi a partecipare. E naturalmente, grazie mille. Anche chiediamo la comprensione ai cittadini, perché poi Roma, poveraccia, con tutti i problemi che ha. Comunque, grazie a Rosa Sigillò. Volevo dirvi su questo tema: Corriere della Sera oggi, 28, pagina 28, Gianno Fregonara. I presidi che dovevano essere la figura centrale della buona scuola, poi rottamati nel corso degli eventi, perché la protesta sindacale è stata molto forte a centrare su di loro. Leggete Gianna Fregonara, un altro paradosso, perché alla fine l'anno. Con un anno di ritardo parte anche il concorso per i nuovi presidi, saranno tardivi, pochi, dei super supplenti sono diventati, dovevano essere il nuovo cardine della scuola, del potere decisionale della qualità dell'offerta nella scuola. Non è così, ovviamente, non dite che critico troppo, continuate su Radio 24, appuntamento alle 4 ancora con me, alla versione di Oscar.